Viva l'Italia! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Luoghi d'Italia di Stefano Brambilla. Buongiorno e bentrovati a Luoghi d'Italia, la trasmissione di Radio 24 che vi conduce alla scoperta di territori poco conosciuti del nostro bel paese. Oggi parliamo di Salento. Voi direte: alla faccia del poco conosciuto. Eppure vi sfidiamo a conoscere le storie che vi andiamo a raccontare. Per cominciare, Eneide, libro terzo, Enea arriva in Italia, o meglio, arriva in Salento. Di già tramontate le stelle, l'aurora tingeva il cielo di rosa quando vediamo monti lontani, velati di nebbia, e sorgere bassa dal mare l'Italia. L'Italia ci addita a Acate per primo. L'Italia e i compagni salutano in grido di giubilo. Anchise cinge di fiori un calice largo, lo colma di vino e in piedi levatosi a poppa, si volge ai numi così: «Voi che del mare siete i potenti, divini signori, e così della terra e dell'alte nere tempeste, fate che il vento ci spinga sereno per facile via». Crescono i soffi del vento invocato e si scopre il porto vicino e il tempio a Minerva sul monte. Caliamo le vele, volgiamo ai lidi le prore. Ad arco il porto si incurva, sicuro dei flutti di Euro. Le rupi di fronte spumeggiano in salso fervore, scogli turriti che in basso distendon le braccia, simili a duplice muro lo coprono ai lati, e indietro il tempio scompare, alla vista dal lido. Francesco D'Andria, buongiorno. Buongiorno. Ma lei, che è docente di archeologia e storia dell'arte greca, nonché direttore della scuola di specializzazione in archeologia all'Università di Lecce, lei ci può dire dove esattamente è arrivato Enea? Ve lo posso dire da un anno, perché prima non si sapeva esattamente quale fosse il punto di arrivo dell'eroe mitico, dell'eroe proveniente da Troia. L'anno scorso abbiamo fatto degli scavi a Castro e proprio nella parte che dava sul porto ho potuto identificare un luogo di culto, un santuario. C'erano degli altari di ceneri e all'interno di questi altari delle offerte di armi. Io quando ho trovato queste armi di ferro ho pensato ad Atena, e infatti Virgilio nel libro terzo dice che il punto in cui Enea sbarca era sormontato, era dominato da una rocca, e sulla rocca c'era il tempio di Atena. E quindi aver collegato questo luogo con i resti archeologici del santuario di Atena è stata per me una delle più forti emozioni della mia vita di archeologo, che è una attività ormai lunga negli anni, ma però questa è stata un'emozione veramente forte. Lo possiamo immaginare, perché ritrovamenti così non avvengono tutti i giorni. Il Castro, ricordiamo, è sulla costa orientale del Salento, vicino a Otranto, giusto? Sì, però non è finito, perché proprio l'anno scorso, alla fine della campagna, è venuta fuori il ritrovamento che ha dato proprio il sigillo finale a questa identificazione. È venuta fuori dagli scavi una statuetta di bronzo del IV secolo avanti Cristo, di squisita fattura, che rappresenta Atena. Quindi... però non un'Atena come quella dell'Attica, ma un'Atena troiana, perché invece dell'elmo ha l'elmo frigio, ha il berretto frigio, che segna l'Atena orientale, l'Atena che viene da Troia. Quindi evidentemente il culto di questa Atena troiana si è impiantato sulla costa del Salento grazie a questa tradizione che poi Virgilio ha ripreso 2000 anni fa. Quindi non è soltanto mito epica, ma c'è qualcosa di storico alla base, ben evidente. Virgilio, potremmo intitolare, Virgilio aveva ragione, cioè ha descritto il luogo, la geografia e i miti che intorno a questa geografia magica si sono stratificati. Questa statuetta adesso è visibile, si può vedere da qualche parte o appena, è in attesa? Subito dopo la scoperta c'è stata una mostra in Francia a Brest, e quindi è stata mandata come messaggera del Salento a Brest, e proprio da una settimana è tornata dalla Francia, è tornata ed ora è nel castello di Castro, dove è stata allestita una prima presentazione dei ritrovamenti, e devo dire che Castro vive una stagione turistica molto intensa, e sono soddisfatto perché tanta gente vede la statuetta, vede il castello bellissimo del Cinquecento restaurato da poco. Professore, ci dica qualche luogo vicino a Castro dove i nostri ascoltatori, che già andranno a visitare il museo e vedere questa celebre statuetta, possono vedere e possono apprezzare. Beh, dall'alto della rocca intanto si vede tutta la costa rocciosa, ma Virgilio stesso parla di turriti scopuli, cioè degli scogli turriti proprio alti, a picco sul mare azzurrissimo, e si vede questa costa meravigliosa fino al capo di Leuca, quindi è un luogo da cui si osserva il mare, si osservano i passaggi, e nelle giornate più limpide, soprattutto d'inverno, si vede la costa albanese, cioè i monti dell'Albania si possono toccare quasi. E poi andando invece verso nord c'è la grotta Zinzulusa, si chiama così perché in salentino nel dialetto Zinzuli sono le stalattiti, come dei pezzi di stoffa che pendono dal terreno, Zinzulo ha questo significato, e la grotta Zinzulusa è anche questo un luogo meraviglioso perché è una grotta come le grotte di Castellana ma sul mare, che si apre sul mare e il mare azzurro entra proprio dentro. È un posto straordinario. Siamo sicuri che i nostri ascoltatori non mancheranno motivi per andare a scoprire Castro, la grotta Zinzulusa e la sua zona. Francesco D'Andrea, grazie per essere stato con noi, buona giornata e a presto. Buona giornata anche a voi, arrivederci. Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de castaieni, dai più valore alla cultura gadieni. Siamo salentini dell'umunno cittadini, radicati allì messavi gulli greci e bizantini, uniti in ciascun stile o cegulli giamaicani. Ovvero, se non dimentichi mai le tue radici, rispetti anche quelle dei paesi lontani. Siamo salentini, cittadini del mondo, radicati ai messapi con greci e bizantini. Breve traduzione delle radici catieni, vero e proprio inno al Salento dei Sud Sound System, folky pop reggae alla pugliese, anzi, alla salentina. Parliamo ora dell'altra costa del Salento e ci dirigiamo verso Nardò. Tra l'altro, Castro, Nardò, il mare pugliese è sempre uno dei più belli d'Italia. Quest'anno la guida blu edita dal Touring Club Italiano e da Legambiente dà le 5 vele, ovvero il massimo riconoscimento per chi si distingue per la qualità del mare, delle spiagge, della tutela dell'ambiente costiero, a Otranto e proprio Nardò, e Castro segue subito dietro con 4 vele. Per cui, se dovete trovare un posto dove andare al mare, sapete dove recarvi. Che cosa ci sia di bello a Nardò, oltre a chiese barocche che rivaleggiano con quelle di Lecce, lo chiediamo a Emanuela Rossi, che il territorio lo conosce come le sue tasche. Buongiorno Emanuela. Buongiorno. Allora, Emanuela con suo marito ha fondato una ditta, si chiama Avanguardie, che porta i turisti alla scoperta del territorio, partendo proprio da Nardò, giusto? Esatto, sì, Nardò è il centro dove noi abbiamo la sede e il luogo in cui preferiamo lavorare, visto che amiamo molto questa terra. Cominciamo a parlare proprio di mare, visto che abbiamo citato il mare delle 5 vele. Che mare c'è a Nardò e perché è così bello? Beh, ci sono mille motivi per venire a Nardò, sicuramente il mare è uno di questi ed è bellissimo per la sua natura carsica, per le mille sorgenti che lo rinfrescano e anche per l'ombra che le pinete e la vegetazione della macchia mediterranea danno, oltre ai profumi, quindi perché no? Certo, ci sono anche dei parchi naturali, giusto? Sì, il Parco Naturale di Porto Selvaggio, che è il primo parco di Puglia, tra l'altro rivisto e corretto da un ampliamento recente che protegge la maggior parte della costa neretina. Come si visita questo parco? Tanto per dare un'idea agli ascoltatori, via mare, via terra, ci sono dei percorsi. Io sono stato, è davvero molto bello, è una zona anche poco visitata rispetto a tanti altri pezzi di costa della Salentina occidentale. È un po' il nostro giardino segreto, Porto Selvaggio. Porto Selvaggio è un parco terrestre, si può anche visitare via mare, nel senso che essendo un parco che protegge la costa si vede navigando sotto costa, ma dicevo appunto è un parco terrestre attraversato da diversi itinerari, noi ne facciamo alcuni sia a piedi che in bicicletta e la pineta, la macchia, il mare sono sempre a portata di mano e d'occhio, quindi sono sempre piacevoli questi itinerari perché non sono monotoni, hanno molti aspetti differenti che si intrecciano l'uno con l'altro. Dicevamo anche itinerari in bicicletta, infatti Avanguardie fa anche itinerari in bicicletta, potete andarli a vedere sul sito www.avanguardia.net. Dove portate i turisti in bicicletta e soprattutto quali turisti portate? Ma io adesso vengo con un gruppo, proprio adesso lo sto lasciando, è composto di famiglie e di adulti in vacanza, quindi un gruppo misto, molto differente per età e per esigenze. Quello che hanno in comune è un po' quello che è il nostro motto, cioè la voglia di andare piano. Allora, andamento lento in bicicletta, andamento lento a piedi, e quindi seguendo questa filosofia riusciamo ad unire molto le persone e a fargli godere il territorio. La fretta la lasciamo a casa. Oltre alla natura, il territorio di Nardò e in generale dei dintorni della costa occidentale salentina, però ha anche altri elementi di interesse. Beh, le masserie, le torri costiere, i centri storici, le chiese, non ce n'è per tutti i gusti, insomma, non è necessariamente soltanto il centro del paesaggio, che comunque è sicuramente rilevante, ma è anche il centro dei luoghi d'arte, della storia. Ad esempio, proprio nel parco di Porto Selvaggio sono stati fatti ritrovamenti importantissimi per quanto riguarda la preistoria, quindi anche chi ha queste curiosità può essere soddisfatto. E ci fa anche qualche esempio invece di centro particolarmente interessante, per esempio per l'architettura, da visitare tra una passeggiata e l'altra? Beh, Nardò ha un centro storico di tutto rilievo, la sua piazza principale è riportata su molti libri d'arte ed architettura, quindi Nardò sicuramente vale la pena. E poi c'è Gallipoli, c'è il centro storico di Ugento, la Grecia salentina, non saprei cosa tralasciare perché valgono tutti la pena di una passeggiata. Grecia salentina, diciamo due parole visto che l'abbiamo citata, perché ha tutta sì. Una storia particolare, perché si chiama Grecia? La Grecia salentina è un territorio oggi piuttosto limitato, relativo a 9 comuni, un tempo era molto più estesa, e si parla una lingua che è molto molto affine al greco moderno intendo. E si parla questa lingua perché nel passato colonie di greci sono state portate qua e hanno portato con sé tradizioni, lingua, usi e costumi e anche la cucina, per cui in molte sagre oggi si mangia greco in Salento. E se non si mangia greco, che cosa si mangia dalle parti di Nardò? C'è qualche prodotto particolare che possiamo gustare? Beh, lei sta parlando con una persona vegetariana, quindi non posso non citare tutte le verdure fritte, le verdure al forno, le cose che si possono fare con i peperoni, è inimmaginabile quello che qui si può fare con le verdure, anche con uno stesso prodotto ci sono decine e decine di ricette diverse, quindi vale la pena di provare anche la cucina. Concludiamo con qualche parola sui vostri programmi per bambini e per famiglie, che ci piacciono molto e ci sembra importante citare. La ringrazio per questo, i nostri percorsi sono tutti molto semplici perché, come dicevo prima, ci piace andare con un passo tranquillo e quindi i bambini sono benvenuti, anche gli animali, i cani o qualunque animale che uno abbia piacere di portare con sé in vacanza, perché non va dimenticato anche questo compagno della quotidianità cittadina, con noi può venire tranquillamente. Le passeggiate a piedi, le passeggiate in bicicletta o anche gli itinerari del gusto che facciamo nelle masserie, come a Masseria San Biagio, a Calimera, dove facciamo delle degustazioni, dei laboratori oppure dei giochi, diciamo, didattici con i bambini, che gli consentono di conoscere le cose semplicemente giocando. Giocando, che è sempre il metodo migliore. Ringraziamo Emanuela Rossi di Avanguardie, www.avanguardia.net, e le auguriamo buona giornata. Anche a voi, buon lavoro a tutti. Pedaleremo verso il mare, proprio dove nasce il sole, quando il respiro della terra muove le prime nubi intorno a noi. Ritorneremo a quelli. Ancora i Sud South System che pedalano verso il bel mare del Salento per salutarvi e ringraziarvi dell'ascolto. Ci risentiamo alla prossima puntata. Buona giornata.